si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno, buona domenica e buona primavera. Inizia la primavera. Ufficialmente da domani o da oggi? Mi sembra non da oggi, sa, perché c'è sempre quel problema del giallo della primavera, che non si sa mai, però io direi che noi ci atteniamo a Facebook, che oggi fa gli auguri a tutti. Ci atteniamo a Facebook, è tutto finito. Vabbè, oggi Milano saluta la primavera, oltre che con la stra Milano, anche con un sole straordinario che c'era anche ieri. È un weekend bellissimo. Avrei voluto essere lì. Avrei a correre. Ormai non è più neanche immaginabile la domenica poter fare una cosa del genere da quando siamo in onda. Esatto, io invece sono felicissimo. Ma mi sembra la più grande scusa di sempre. Vieni a fare la Stra Milano, Carlo? No, io purtroppo sono in radio. Una grande edizione dell'Ora della Terra, la edizione da record. Ieri in tantissimi hanno accolto l'invito del WWF, che abbiamo rilanciato anche noi in puntata, a spegnere le luci almeno per un'ora. Dalle 8:30 ieri, bello, emozionante. Sì. Cominceremo mai a fare qualche cosa di più che non sia un'ora all'anno per risparmiare sugli sprechi assurdi? Beh, ieri hai lanciato un minuto al giorno che sarebbero 6 ore all'anno, che sarebbero 365 minuti all'anno, e quindi già hai fatto per 6. Va bene. La grande manifestazione del WWF. Diciamo anche che a vincere il gioco di ieri è vero che poi ci siamo emozionati, sì, alla fine abbiamo, sì, chiuso, c'era Davide non l'abbiamo detto. L'ascoltatore Francesco da Bari, che ci ha chiamato mentre era in campagna a potare i suoi ulivi, e ci ha detto: un motivo per essere felici oggi in Italia è quindi scalare la classifica del World Happiness, in cui siamo scesi purtroppo solo al 50° posto, ha vinto la Danimarca. È proprio questo, godere della campagna italiana, di poter stare in campagna, per esempio a potare gli ulivi e fare quel lavoro lì, ma proprio in Italia. E credo che lo richiameremo, perché aveva un ottimismo straordinario, parlava delle figlie, nipoti e tutti. Ora, te pensa cosa sarebbe successo se in Sicilia a Pasqua arrivano i turisti a frotte, come arriveranno sicuramente, e trovano i musei chiusi. Perché semplicemente non c'è, cioè, personale, cioè oddio, personale ce n'è fin troppo, ma quello che sarebbe servito per tenere aperti i musei non c'era, non si trovava, non era disponibile. Sarebbe stata la follia, la solita follia forse siciliana. Ebbene, sembra che questo non accadrà, ne parleremo tra poco. Non accadrà, dramma scongiurato. Da quello che ho capito, dramma scongiurato, un po' come sempre. Emergenza Pasqua, un po' come l'emergenza smog che arriva tutto, sì, l'inverno, non sappiamo. Qua uguale, siamo riusciti a tenere forse aperti i musei a Pasqua. Temo che tipo ad agosto si riproporrà di nuovo lo stesso problema. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums. Ma noi siamo qua anche per aiutarvi a ricordare che cosa è accaduto in questa settimana. Alcune tra le principali notizie, fatti. Cominciamo con cose dell'ultima parte della settimana, come l'arresto di Abdeslam Salah, l'ultimo terrorista del comando del Bataclan che mancava. Le autorità belghe ci hanno messo un po' di tempo, aiutate sicuramente, sostenute dalla Francia, che ha chiesto anche l'estradizione. Noi sentiamo la voce del nostro ministro dell'interno, Angelino Alfano. Il tentativo di fuga, che è l'alternativa al martirio, è una strada che non porta risultati. È stato catturato e non potrà organizzare, almeno lui, altri di quegli attentati. L'allerta in Italia è talmente elevato che non ha molto margine per essere ulteriormente alzato. È evidente che noi lavoriamo giorno e notte con un'attività di prevenzione che significa perquisizioni, intercettazioni, significa espulsioni, controlli di veicoli, controlli di navi. Fin qui ha funzionato e speriamo che continui a funzionare. Oh, però, presi dalla Verve, questa mattina non abbiamo dato l'indizio per giocare alla ricerca del personaggio. Perché è ancora settimana. Più difficile senza indizio, perché senza infatti indizio. Sono tutti lì che dicono: ma senza indizio vale tutto, allora vale anche questo, allora potrebbe essere anche lui, allora chiamate, anche lei. Chiamate. Vale tutto, no, all'800 24 00 24. Cerchiamo un personaggio che ha una notizia che lo riguarda questa settimana. Il primo indizio che andiamo a darvi è questo: è un personaggio da record. Da record, quindi pensate un po', qualche record. E chiamate 800 24 00 24. Da quando ha scoperto l'utero in affitto, il ministro della salute Beatrice Lorenzin è infuriata, eh? Infuriata. No, dico da quando l'ha scoperto, perché in Italia si può fare da 20 anni circa, però. Si vende, non si compra e non si affitta, motivo per il quale noi andiamo avanti nella nostra battaglia contro l'utero in affitto, una battaglia di civiltà per tutte le donne, presentando un disegno di legge per l'Italia e una mozione che speriamo venga approvata da tutto il Parlamento per perseguire l'utero in affitto come reato universale. No, ho detto in Italia esiste da 20 anni, in realtà in Italia non è possibile farlo, ma in Italia è possibile da 20 anni regolarizzare per le coppie eterosessuali il figlio nato con l'utero in affitto in Canada, per esempio, e la legge consente di riconoscerlo al genitore non biologico. Quello addirittura etero. Da più di 30, perché esiste dal 1983 ed è esatto. La stepchild adoption per le coppie eterosessuali, quindi quando se ne parla che sembrava chissà che cosa, è una cosa che esiste da più di 30 anni e ha fatto solo del bene in realtà. Sono però d'accordo con te, nel senso che l'utero in affitto, sul quale io vorrei che parlassero le donne, perché sento un sacco di uomini che ne parlano e penso che invece sarebbe meglio che ne parlassero loro. Io non ho una posizione in merito. Mi fa anche a me strano quando questa pratica, che tra l'altro si chiama gestazione per altri, e smettiamola di chiamarla con questa parolaccia offensiva, è per la quasi totalità, ovvero per il 95% dei casi usato da coppie eterosessuali che desiderano ardentemente un figlio e non hanno un altro modo per generarlo. Ora, se sia lecito o meno, parliamone. Che solo oggi il ministro si svegli e si accorga di questa cosa, perché qualche coppia omosessuale, e in tutta la questione delle unioni civili è venuta fuori, e Vendola incluso, è venuta fuori la questione della gestazione per altri, fa sorridere. Adesso, come anticipato, andiamo in Sicilia. Amici come prima, Paola e Chiara, non so che anno fosse, ti ricordi? Insomma, sono passati. Certo che me ne ricordo, Paola e Chiara. Anni. Come no, come no. Amici come prima, perché hanno scherzato forse i dipendenti della società Servizi Ausiliari della Sicilia e la Regione Sicilia, hanno scherzato perché avevano minacciato di tenere chiusi a Pasqua i musei per mancanza di fondi, invece poi è stato trovato un accordo. Amici come prima, siamo tutti contenti, ma il problema esiste e si riproporrà sicuramente questa estate. Ne parliamo con Antonella Milazzo, buongiorno. Buongiorno. Segretario della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell'Assemblea Regionale Siciliana, consigliera, quindi regionale, o deputata, come bisogna chiamarvi? Deputata. Ma in Sicilia c'è questa tradizione, la sostanza non cambia. Non cambiamola, no. Questa tradizione, ecco perché è una tradizione. Sì, ne stiamo cambiando parecchie, ecco, grazie bravo. A Dio. Tra una di quelle che si potrebbero cambiare è questa, cioè la tradizione in base alla quale ogni anno, quando si arriva sotto festività, in Sicilia c'è l'allarme per la possibilità che chiudano, non siano aperti a causa della mancanza di fondi per gli straordinari, che giustamente vanno pagati ai dipendenti della società che garantisce questi servizi. Chiusura scongiurata, no? Però questo sì, si può dire. Chiusura scongiurata, ma chiaramente questa, ha detto bene lei, è una storia che si ripete puntualmente quando si avvicina la stagione estiva, e questa è una delle cose che bisogna assolutamente cambiare in Sicilia. Stiamo provando, perché in realtà credo che sia un problema che debba essere aggredito da fronti diversi. Il primo fronte è quello di un miglior utilizzo dei 1545 custodi dei musei, per cui anche qui cambiamo la tradizione, allineiamoci, non nascondiamoci dietro l'autonomia, allineiamoci al resto dell'Italia, dove il ministro Franceschini sta facendo da questo punto di vista un lavoro straordinario. Convinciamo, non so che termine usare, i sindacati a rinunciare a qualche prerogativa, a rinunciare al tetto del 33 o del 50% per la chiusura dei festivi. Ricordo che ci sono moltissimi lavoratori che lavorano tutto l'anno nei festivi e la domenica, sì. Credo che fra questi debbano sicuramente rientrare i custodi dei musei, quindi flessibilità innanzitutto degli orari. E per questo basta poco, basta che i sindacati siciliani si allineano a quelli del resto dell'Italia. Però io adesso devo fare una piccola pausa per il traffico, poi torniamo, le anticipo una domanda. Ma siamo sicuri che il problema siano i sindacati che anni fa avevano chiesto per esempio la chiusura di questa società, la società Ausiliari Sicilia, che se non ho capito male annovera oltre 300 dirigenti, tra l'altro, che assorbono poi una parte delle risorse di questo contratto di servizio che la Regione Sicilia fa con la società per garantire poi l'apertura dei musei. Non è che il problema è che ci sono magari troppi dirigenti che stanno che assorbono risorse anziché essere una questione di sindacati. Domanda, traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, di nuovo buongiorno cari ascoltatori a tutti da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. E anche ad Antonella Milazzo, che è consigliere regionale in Sicilia, segretario della Commissione Cultura, che ha accettato di venire a parlare di questa questione. Tra l'altro lei ha fatto una proposta, appunto quella di riqualificare anche il personale che c'è in eccesso, magari in altri uffici della regione, per metterli a servizio. Però io la domanda che l'ho fatta è questa: siccome secondo alcune stime il patrimonio culturale museale della Sicilia ammonta quasi a un quarto di quello italiano, ma incasserebbe circa il 10%, cioè il 25% del patrimonio e il 10% dell'incasso, c'è secondo molti anche un tema di efficienza nella gestione, ci sono però tantissimi dirigenti e lei però mi dice che il problema sono i sindacati? No, io attenzione, avevo detto è un problema che va affrontato da fronti diversi. Uno è quello della maggiore del cambio del contratto collettivo di lavoro per allinearlo a quello italiano. L'altro è quello che si sta facendo anche qui in linea con quanto sta facendo il MIBAC, il Ministero dei Beni Culturali, cioè l'accorpamento dei siti per la riduzione delle dirigenze. L'accorpamento dei siti consente una maggiore utilizzazione delle risorse umane, perché consente all'interno di uno stesso polo museale lo spostamento delle risorse eventualmente da dove servono, sì. Perché uno dei problemi della Sicilia è quello di avere tanti piccoli musei. E fra questi piccoli musei, spesso tra l'altro non facilmente raggiungibili, ecco perché un motivo per cui i musei molto spesso sono poco visitati rispetto a quello che è il patrimonio culturale siciliano, e ci sono dei piccoli musei che hanno oggettivamente un surplus di personale rispetto alle dimensioni, rispetto al numero dei visitatori. Accorpando i poli museali, creando i poli museali come si sta facendo in Italia, si dà al dirigente, intanto ovviamente una delle cose che succedono è che si riduce il numero delle dirigenze, perché se si accorpano dei musei o dei parchi è chiaro che i dirigenti diminuiscono, quindi affrontiamo anche quest'altro perché è problema. Vero che i dirigenti nel settore museale e culturale dei siti sono oltre 300? 306 sì, per l'esattezza. In questo momento sì, bisogna assolutamente ridurre le posizioni organizzative in termini di efficienza ed economicità. Ma c'è un progetto concreto di questa riforma? C'è un disegno di legge all'esame della giunta regionale che presto sarà in commissione in aula in linea con quanto le dicevo, e quindi con la possibilità all'interno del polo museale di spostare le risorse laddove ce n'è maggior esigenza, maggior richiesta in base alle dimensioni. Per quanto riguarda il personale della SAS, credo che questo debba essere utilizzato a completare il personale come già avviene, non credo che sia un problema di guerra fra custodi dipendenti dall'assessorato e quelli che dipendono dalla SAS. La SAS raccoglie del personale che fa dei servizi in certo qual modo aggiuntivi, quindi credo che siano ugualmente indispensabili. Però su queste misure, quindi miglior utilizzo del personale, un contratto sindacale che preveda una maggiore flessibilità, l'accorpamento dei musei nei poli museali che riducano le dirigenze e consentano al dirigente di utilizzare meglio il personale all'interno dello stesso polo museale, è possibile spostare il personale, perché uno dei nodi è quello per cui il personale difficilmente oggi si può trasferire da un sito all'altro. Ecco, però ecco, sì, a tutto questo lei dice stiamo lavorando, però siccome le ripeto la domanda in qualche modo, siccome questa questione della rischio chiusura dei musei a Pasqua o in altre, a ridosso di altre festività, la sentiamo a ridosso di ogni festività. Non era, visto che per la Sicilia la gestione del patrimonio culturale, il turismo, che dovrebbe essere per l'Italia forse una delle principali economie, per la Sicilia forse ancora di più, non era forse una delle primissime cose da fare quando si è insediato il governo e la consigliatura? Invece mi pare che lei mi dica stiamo facendo, dobbiamo fare, eccetera, eccetera. Questa vecchia questione degli accordi sindacali viene portata avanti di anno in anno dagli assessori e viene risolta anno per anno. È necessaria la buona volontà, io credo, da parte di tutti per poter fare questo. Ovviamente sì, c'è un ritardo per quanto riguarda la riforma dei poli museali, ma insomma anche il ministro Franceschini l'ha adottata da qualche mese, quindi non è un grande problema. Sì, partendo però, mi scusi, da una situazione un po' meno drammatica di quella siciliana da questo punto di vista, chi è che frena per, lei dice ci sono delle resistenze, ci vuole la buona volontà di tutti, chi è che frena un progetto del genere di più? Chiaramente i lavoratori anziani hanno tutto l'interesse di non cambiare le cose, noi questo lo dobbiamo evitare assolutamente, quindi per questo dicevo ci vuole la buona volontà di tutti, perché tenere un museo chiuso nei festivi o già nella settimana di Pasqua è un danno enorme. Così come bisogna accelerare sull'attribuzione dei servizi aggiuntivi, che purtroppo ancora non sono partiti per una serie di vicende che partono dalla revoca della vecchia gara con l'arresto dell'imprenditore che aveva in carico i servizi aggiuntivi nei principali siti museali siciliani. Quindi capisco che dall'esterno può sembrare che stiamo perdendo troppo tempo, ma abbiamo trovato una serie di guasti enormi. Perché comunque il governo Crocetta si è insediato da 3 anni circa, anzi tra un po' finirà, e se come lei dice il problema esisteva già, forse in 3 anni qualche cosa si sarebbe potuto fare. Soprattutto un dubbio, forse mi sbaglio, ma il dubbio che mi viene è che se uno lavora all'interno di un museo, io capisco tutti gli straordinari, ci mancherebbe altro, ma in realtà è ovvio che lavora di più nei giorni festivi, perché le persone vanno di più al museo. Sarebbe come un calciatore che si rifiuta di lavorare la domenica. Questo in Sicilia non era ovvio, stiamo cambiando questa mentalità e da tre anni assistiamo a queste minacce di chiusura, e poi regolarmente i musei restano aperti, non so se certo. Mi spiego, cioè, da 3 anni in realtà. Sarebbe legale, sarebbe interessante primavera. Anche sapere, non so se lei lo sa, quanto guadagna per esempio il presidente del consiglio d'amministrazione di questa società, che è Gaetano Pennino, per esempio, che è stato lui a mandare una lettera alle società, ai dipendenti. Gaetano Pennino è il direttore generale dell'assessorato, sì. Non è dipendente della SAS, è il dirigente generale dell'assessorato. Ed è lui ovviamente che come capo del vertice amministrativo deve curare la gestione. No, ha ragione, mi sono sbagliato. Pennino è il direttore generale, poi c'è anche un presidente del consiglio di amministrazione. Insomma, sarebbe interessante sapere quanto guadagnano questi dirigenti e quante risorse assorbono di quelle che poi la Regione Sicilia dà alla società affinché gestisca. Il direttore generale dell'assessorato guadagna come un dirigente generale, come è giusto che sia, tra l'altro tenendo conto che anche qui negli ultimi 3 anni è tutto giusto, onorevole, è tutto giusto, però sono molto cambiate. Qualcosa che non funziona ci deve essere. assolutamente questo siamo noi la salutiamo questo. Le facciamo in bocca al lupo per lei, per la Sicilia, per i musei siciliani, per i siti, per i turisti, per tutti. Speriamo che, non lo so, non so neanche cosa sperare, speriamo che questa che siano realtà sempre aperti cambi. Speriamo, esatto, che siano sempre aperti. Grazie comunque, in bocca al lupo. Il buon in bocca al lupo è sincero. Grazie mille. Allora, abbiamo un minutino per chiudere. Raffaella da Roma, buongiorno. Stiamo buongiorno, cercando un personaggio della settimana, un personaggio da record. Prego. Io volevo dire Pietro Mennea, perché qui a Roma ieri si è svolta la seconda edizione delle Menneadi, ed è una manifestazione voluta dalla moglie, ricordo, di Pietro Mennea. Ci sono stati tutti i ragazzi delle scuole di atletica che hanno corso. Bellissimo. È stata la sfilata, è stato molto bello. Ma insomma, Pietro Mennea per la nostra generazione... Parlo che oltre 40 anni, ovviamente. Aveva un figlio che correva? Due, entrambi i miei figli. C'è quella di 10 anni che ovviamente non conosceva Pietro Mennea. E gliel'ha spiegato lei. Raffaella, non era Mennea il personaggio. Grazie comunque. Grazie ad averci ricordato sempre anche le Mennea. Sempre straordinario. Mennea record, un altro personaggio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona primavera. Volevo solamente correggermi, prima ho parlato di solstizio, ovviamente intendevo equinozio. La certo, primavera... facile adesso correggersi. Esatto, ignorante, ho sbagliato e chiedo scusa, però la primavera è iniziata oggi, come dicevo, il 20 marzo 2016 alle 5.30, quindi esattamente 3 ore e 40 minuti fa. Su questo avevi ragione tu, io dicevo che il 21 invece è iniziata ufficialmente oggi. Ed è la più precoce. Coach dal 1896. 800 24 00 24, cari ascoltatori, stiamo cercando un personaggio della settimana. Abbiamo dato come primo indizio il fatto che è un personaggio da record. Tra poco sentiamo i vostri interventi. Un secondo indizio. C'è una buona notizia di questa settimana che tra poco approfondiremo, ed è l'approvazione alla Camera della legge antisprechi. Dovrebbe essere, sarà più facile, quando sarà approvata tra l'altro definitivamente questa legge, donare cibo e farmaci avanzati, non scaduti, ma avanzati, buoni ancora da utilizzare, perché in Italia ancora c'è qualche problemuccio su questo fronte. Pensavo quindi... che fosse una legge che si occupasse anche degli sprechi della politica, invece no, infatti è una legge che è passata benissimo, senza neanche un voto contrario, perché ovviamente si occupa dei nostri sprechi e di noi che possiamo regalare tranquillamente. No, quasi mi ritorni sul importante tema di apertura della puntata di oggi, che è stato la questione dei musei a Pasqua in Sicilia, che non saranno chiusi perché sono state trovate le risorse aggiuntive per pagare gli straordinari dipendenti, ma su quel fronte degli sprechi sicuramente di mala gestione. Ci sono in Sicilia oltre 300 dipendenti, ce l'ha confermato anche la consigliera dirigente, ce l'ha confermato anche la consigliera Milazzo, la consigliera siciliana, e sono quasi, non dico il doppio, ma molti di più di quelli che ci sono in tutta Italia, in tutta la questione, la gestione dei beni culturali, ministero e sovrintendenze inclusi. Direi che hai detto tutto. Vabbè. Allora, che facciamo? Gli ascoltatori? Facciamo sentire qualche voce di settimana anche. Sì, la questione sindaci a scatenare tutto. Può una donna, mamma, fare il sindaco? No, la risposta di Bertolaso. La Meloni potrebbe fare il vice sindaco? No, la Meloni deve fare la mamma. Mi pare che sia la cosa più bella e che le possa capitare ad una donna nella vita. È definitivo questo. La Meloni deve fare la mamma. Però, no, deve gestire questa pagina della sua vita, che è una delle pagine per una donna, credo che sia la più bella in assoluto. Non vedo perché qualcuno deve costringerla a fare una campagna elettorale che comunque sarà feroce. E poi... nel momento in cui deve incominciare ad allattare, incominciare anche a occuparsi delle buche, della sporcizia, del traffico, dei topi, della microcriminalità e di tutto il resto. E a chi mi dice che forse non potrei fare il sindaco perché mi ritroverei a allattare mio figlio, ricordo che in una città che ha come simbolo una luma che allatta due gemelli, non potrei fare il sindaco che allatta un bambino. Dicono che... certo, voglio anche dire che farò la campagna elettorale con i tempi di una donna, farò la campagna elettorale con i tempi di una mamma. Certo che una mamma può farlo, poi io spero lo faccia Giachetti, ma una mamma può assolutamente farlo. Diceva Benigni tanti anni fa in un film: le donne, certo, poverine, sono uomini anche loro. Che lo faccia Giachetti, Renzi intende che Giachetti faccia la mamma in realtà, o che faccia il sindaco di Roma. No, volevo dire una cosa, domanda. Perché in realtà la cosa che trovo spiacevole nella frase di Bertolaso è il fatto che dica deve fare la mamma, cioè quello che deve fare la Meloni lo deciderà la Meloni. Questa idea che è l'uomo che decide quando una donna deve occuparsi semplicemente di maternità mi sembra sbagliato. E soprattutto questa idea che una donna con la maternità esaurisca la propria funzione nel mondo mi sembra un po' riduttiva, è una visione molto maschile, se devo dire. C'è un non altro caso, sì, scusami, no, c'è un altro caso che è quello di Patrizia Bedori, candidata del Movimento 5 Stelle, adesso non più a sindaco di Milano, è stata scelta con una sorta di primarie dove si sono radunati tutti i candidati del Movimento 5 Stelle a Milano, era stata scelta lei con pochissimi voti, a dire la verità, perché pochi furono i partecipanti. Lei ha detto: non reggo alla pressione mediatica, adesso sentiamo la sua voce, però ha anche detto: mi hanno offesa per il mio aspetto fisico, mi hanno detto che sono grassottella e che non sono telegenica, cose che naturalmente di un uomo non si direbbero mai, no? La pressione mediatica, io sono una cittadina comune, sono una cittadina prestata alla politica, quindi non sono una che si è seduta sulla poltrona e che vuole diventare sindaco per potere, è semplicemente mi hanno scelto e io mi sono messa in gioco. La pressione mediatica che tutto questo ha provocato intorno alla mia persona non la reggo. Poverina, è veramente, perché praticamente quasi è quasi l'unico requisito ormai che rimane a una persona per fare il politico. Devi avere il pelo sullo stomaco, le spalle larghe, devi sopportare un po' di insulti, poi vabbè, porti a casa un bello stipendio, un ruolo importante. Sì, no, soprattutto questo lo scambio, è la questione, no? Cioè, fisica, è una persona normale. Cioè, è la questione che devi bucare lo schermo, ma questo in realtà non è degli ultimi anni, è un po' da Kennedy in poi. Senti un po' qua Casaleggio come risponde su questa questione, e in particolare l'ultima cosa che dice è inquietante. Ma è un passo falso per il movimento, indubbiamente, questo nella corsa da sindaco di Milano. Vedremo dopo le amministrative quale sarà la nostra immagine. Perché conservate comunque ottimismo in questo? Assolutamente. Anche su Milano? Sì. Lei fa troppe domande. Lei fa troppe domande, cioè, ma ti rendi conto? Lei fa troppe. Sembrava Fantozzi. La risposta a un giornalista? Sì. Sì. Beh. Sembrava Fantozzi. No, non so. Sembrava anche Rina, se vogliamo. Lei va troppe domande. Vabbè, dai, Casaleggio. 800 24 00 24, cari ascoltatori. Abbiamo qualcuno in linea? Sì, non trovo la schermata giusta. Massimo da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa voleva intervenire, Massimo? Volevo intervenire sul personaggio della settimana, Tamberi, il saltatore in alto che questa notte ha anche vinto gli indoor a Portland, i mondiali, cavolo, mondiali, grandissimo, esatto. Speriamo che porti bene in vista delle Olimpiadi, bellissima notizia che siamo felicissimi che qualcuno abbia raccontato. Non era lui il personaggio, ma è il motivo anche per cui facciamo questo concorso, è per far raccontare altre belle notizie a voi. È vero, speriamo davvero che faccia una bella prova alle Olimpiadi. L'atletica italiana arriva messa, insomma, così, maluccio. Ha saltato 2,36 m. Grande. Roberto da Monza, buongiorno. Da Lissone, ragazzi. Da Lissone, scusa. Buongiorno, Lissone. Monza. Appuntamento settimanale con voi, tutte le domeniche. Bene. Ottimo. Continua così, fai proseliti anche, metti dei cartelli in giro per strada. Infatti l'ho già fatto, ragazzi. Per me è Valentino Rossi, che ha firmato anche per l'anno prossimo, praticamente 40 anni, corre ancora a 300 all'ora. Beh, è uno straordinario record il suo, l'età con la quale affronta comunque e il di mondiale. Record ne ha fatti talmente tanti che... Ma non era lui il nostro personaggio. Lo sapevo. Però secondo me Roberto lo voleva dire, cioè c'aveva Rossi, proprio lo doveva dire. Ma è giusto, forza. È giusto. Eh sì, è così. Perché l'ho sentito proprio dalla vostra radio... Avendo 40 anni l'anno prossimo, praticamente. Già 40 anni? No, ma secondo me non sono 40 anni l'anno prossimo. L'ha detto se l'ha detto la radio, adesso è giusto. Controlliamo con i potenti mezzi che abbiamo a disposizione e verifichiamo. Grazie Roberto, bene, comunque. Così almeno lo so anch'io, grazie. Bravo. Grazie, ciao, mille. Grazie. Buona domenica. Prossima. Ciao. Sì, signori. Ma noi siamo in onda anche il sabato, comunque, così, giusto per. Dal comunque 7:30 alle 10. Valentino Rossi è del 79, quindi ne ha 37 di anni. Infatti mi sembrava 37. Luigi da Milano arriverà a 40 anni alla fine del contratto. Luigi, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego. Sì, come state? Buongiorno. Noi molto bene. Lei come sta? Non c'è male, col sole a Milano. Ottimo. Si sta meglio. Vai alla Stramilano, Luigi? No. No, no, sono troppo giovane. Bravo. Ottima sì. risposta. Ai giovani Sono diversamente giovane, quindi non posso. Ma perché la Stramilano è per vecchietti? No, io sono diversamente giovane, quindi non posso partecipare. Non far finta di non capire, Gabardini. Luigi, prego. Cosa volevi dire? Allora, il nome dovrebbe essere Buffon. Buffon. Per quale motivo? Beh, perché avrebbe battuto il record di imbattibilità. Sì. Avrebbe o ha? Ha battuto, no, ha dato appunto. Ha battuto il record di imbattibilità come portiere, record che apparteneva a chi apparteneva il record, Luigi, te lo ricordi? Se non erro, Zoff. Mi pare proprio di sì. Mi pare che sia proprio questa la notizia. Però non era lui il personaggio. Vabbè, peccato, Luigi. La prossima volta. Molto volentieri. Non so neanche se ti sei avvicinato molto, forse non tanto. Però in effetti. Stai cercando di dare un secondo indizio? No, avendo detto la parola record, è uno di quei casi in cui gli ascoltatori hanno centrato un personaggio da record di questa settimana. Assolutamente. Notevolissimo. Assolutamente. Lo diamo un altro indizio adesso, però? Diamo l'altro indizio? Sì, avanziamo. Va avanziamo. Bene. Allora, la nostra notizia, la notizia legata al nostro personaggio, che stiamo cercando, come spesso accade, però stavolta in maniera più precisa, parte da una foto. 800 24 0024, vi aspettiamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cari ascoltatori, direte, ma cosa abbiamo sbagliato radio? Radio Maria? Domenica mattina? No! È Radio 24. Buongiorno Rossano, Ercolini. Buongiorno. Alessio, buongiorno a tutti. Environmental Goldman Prize 2013, io non riesco mai a pronunciarlo in inglese, ogni volta lo dico in maniera diversa. Il nostro Rossano, hai sentito che musica abbiamo scelto? Sì, immagino anche perché. Alleluia, finalmente è stata approvata, però diciamo temperiamo l'ottimismo e l'entusiasmo, è stata approvata solo alla Camera, una legge che in qualche modo si aspettava, la legge antispreco. Sì, sì, è stata approvata alcuni giorni fa, mi sembra 5 giorni fa sì. o qualche giorno ancora in più. È una buona legge anche perché... finalmente quando ci sono delle ma buone ma ti sta leggi... sbranando un cane, scusa sì, siamo un po' preoccupati per te. Sono a passeggiare in spazi aperti e quindi, infatti in realtà l'alleluia l'abbiamo messo perché non sei in treno, siccome di solito sei sempre in treno abbiamo detto alleluia, l'abbiamo beccato non in treno, scusami. Io faccio un appello ai proprietari di cani vicino a Rossano Ercolini, state alla larga da Rossano, non me lo sbranate adesso perché no, sono cani buoni, e quindi niente, è una buona notizia perché è stata votata anche praticamente all'unanimità, soltanto astensioni, quindi quando ci sono delle buone leggi c'è anche, dico io, il partito trasversale delle buone pratiche, quindi in, sì. in questo caso grazie a tutti i parlamentari, è davvero una buona legge perché consente di entrare nel vivo dello scandalo dello spreco, a partire da quello più indignante che è lo spreco alimentare. Certo. quando c'è gente che muore di fame, noi continuiamo a sprecare anche a casa, anche in famiglia, anche con gli acquisti, continuiamo a sprecare cibo che invece ha anche un valore economico. Il professore Andrea Segre, che ha il merito di aver stressato positivamente, sensibilizzato da anni su questa vicenda, promuovendo il last minute market, calcola che praticamente recuperando questo cibo che noi sprechiamo risparmiamo il 5%, lo 0,5% del PIL, che insomma si sta a litigare sullo 0,8-0,7. Capisci, è una grandezza, certo, non eh sì, indifferente. Ma allora, scusa, posso chiedere, sì, una cosa stupida? Ma è una buona legge questa? Perdonami la domanda, perché si ha sempre un po', forse perché siamo prevenuti, ma quando le leggi passano all'unanimità si ha sempre il sospetto che siano delle leggi meno indispensabili. Perché quando c'è l'unanimità uno dice: ma come mai va bene proprio per tutti? Ma dunque, intanto perché c'è stata una discussione approfondita nelle commissioni competenti, affari sociali, ambiente, e quindi quando si discute anche al di là dei partiti, insomma, il buon senso fa capolino. Se è una buona legge, sicuramente sì, anche se la compariamo con quella francese che è stata approvata, mi sembra, un anno fa, sì, ha degli aspetti deboli e degli aspetti migliori. Gli aspetti deboli sono che al momento tutto risulta, al momento, perché come ha detto Alessio, deve passare poi di nuovo dal Senato, certo, ma non credo che ci siano preoccupazioni. Al momento tutto sembra rimandare alla volontarietà dei soggetti associativi, le organizzazioni non governative, caritatevoli, ma non solo, anche le organizzazioni di categoria. In Francia invece c'è sono l'obbligo, un po' più statalisti, e soprattutto per la grande distribuzione c'è l'obbligo e anche una multa salatissima se si pesca qualcuno, qualche supermercato, a sperperare. Conoscendo il nostro paese, l'obbligo avrebbe forse aiutato. Beh, anch'io che non sono ovviamente poliziesco, però io dico che ci, nemmeno che ci, io, deve essere, ci deve essere la cogenza, cioè bisogna l'ultima la cogenza, senti che parole che usa Rossano, si vede che è un maestro, beh, è un maestro nel senso vero, che fa insegnare ai bambini. È per tenere buono il cane, secondo me, che ha usato questa parola. L'avete spaventato voi. Oddio, chiedo scusa. No, scherzo. L'aspetto invece positivo è che si inserisce anche il recupero dei farmaci. Questo, ecco, è in più rispetto, è a nostro vantaggio italiano rispetto alla normativa francese. È vero che per quest'ultimo aspetto bisogna aspettare un rimando, un decreto attuativo, però, sì, però comunque, ecco, l'idea di zero waste, che significa spreco zero, speriamo che dopo questa legge si approvi anche la nostra proposta di legge rifiuti zero waste, sì, in senso lato, gli imballaggi che vengono... adesso mi è arrivata notizia e addirittura immagine di una monoporzione piena di spicchi di arancia selezionati, sbucciati, cioè è una cosa che grida vendetta. Quindi speriamo che questa buona legge apra la strada davvero allo spreco zero, quindi a rifiuti zero. Io voglio ovviamente anche allargare, no, la prospettiva di questo successo legislativo, che comunque considero una buona partenza. Poi ci sono coloro che dicono, quando si parla di politica parlamentare, politica governativa, beh, però questo è il governo che ha approvato anche lo sblocca Italia, eccetera eccetera. Adesso arriviamo, Rossano, arriviamo alle trivelle. Ti devo chiedere un parere anche sulle trivelle, perché lo stiamo chiedendo a tutti, lo chiediamo anche a te, ne abbiamo già parlato, siccome c'è il referendum bisogna parlarne, esatto, bisogna arrivarci informati. E devi anche sgridarmi, sì, Rossano, devi sgridarmi, perché posso ammettere che io quando hai parlato ho pensato, beh, comoda però l'arancia già sbucciata. Lo sai che c'è sempre un po', lo sappiamo tutti, c'è un po' sempre il patto col diavolo, no? È vero. Do qualcosa di accattivante e in fondo non sta a me pormi il problema di che cosa succede a questi milioni di confezioni, quindi io mi viene da dire che l'arancia sbucciata è come la donna già spogliata, che gusto c'è? Fammelo sbucciare l'arancio. Ascolta Rossano, Perfetto, io sono omosessuale. Ascolta Rossano, sì, posso dire una cosa io negativa? negativa su questa legge, perché secondo me c'è, l'ho trovata, eccola qua. Hanno stanziato 2 milioni di euro per su questa legge, che sono troppo pochi, perché, questa è la mia personale opinione, è vero che le donazioni di cibo e di farmaci partono dalla scelta di chi dona e dal gran cuore delle associazioni di volontariato che le distribuiscono, ma non si capisce perché devono essere le stesse associazioni di volontariato ad organizzare la logistica di tutto questo. Se lo Stato ci mettesse sopra del suo, in termini di investimenti, sarebbe tutto più facile e meno costoso. Invece 2 milioni di euro a me sembrano pochi. Sì, no, io condivido, lo sai che io sono per mia natura anche portato alla critica, quindi ci sono degli aspetti che magari speriamo vengano ritoccati al Senato, anche se poi il ritocco significherebbe dover passare di nuovo alla Camera. L'aspetto che sollevi tu è corretto, perché noi si rimanda sempre al gran cuore, no? Noi italiani siamo effettivamente, quelli del gran molti cuore. Italiani hanno un gran cuore, però bisogna un pochino anche mettere a regime le situazioni, perché io credo che su queste questioni della tutela ambientale, della salvaguardia del pianeta per le future generazioni, dobbiamo essere seri rispetto alle future generazioni. Quindi questo è un aspetto che indebolisce, anche se poi si prevedono per gli anni successivi altri 5 milioni di euro, però speriamo che aumentino, facciamo pressioni che aumentino, teniamo presente comunque che c'è un dato positivo, che è quello che non solo le associazioni non governative e caritatevoli hanno un coinvolgimento diretto, ma anche organizzazioni di categoria, pensiamo agli agricoltori, la maggior parte del cibo viene sprecata perché non si raccoglie nel campo. Quindi gli agricoltori potranno organizzare sistemi di donazione gratuiti, ovviamente la legge parla chiaro, agli indigenti, a coloro, insomma, alle mense caritatevoli e quant'altro. I panificatori, il pane dovrà essere donato entro un giorno, perché altrimenti non è più commestibile di fatto, potranno organizzarsi e immediatamente stabilire modalità di trasferimento alle mense caritatevoli e alle associazioni che ne fanno richiesta. Io stesso sto portando a Capannori, abbiamo il progetto Pani e Pesci che va nelle mense scolastiche e nelle mense pubbliche a prendere quello che non è stato sporzionato. In realtà l'organizzazione è molto semplice e ci lavorano, per esempio, in questo progetto due ragazzi. Due persone lavorano, vengono alla mensa, prendono quello che non è stato sporzionato, certo, poi lo portano alla mensa. Sarebbero anche posti di lavoro nel momento in cui qualcuno ci decide di investirci. E torniamo alla questione dei fondi, però torniamo anche a un tuo giudizio sulla questione del referendum sulle trivelle il 17 aprile. Dico io un argomento a favore di estrarre il petrolio in Italia, un argomento ambientale che ho sentito dire, che trovo da prendere in considerazione. L'Italia ha una tecnologia, una buona tecnologia. In questi 50 anni di estrazione del petrolio ci sono stati un paio di incidenti non gravi. In altre parti del mondo, pensiamo alla Nigeria, l'estrazione del petrolio è legata a disastri ambientali di tutti i tipi, quindi perché non farlo noi, farlo fare in paesi dove invece le cose sono fatte peggio? Questo è un argomento, però voglio sentire il tuo punto di vista, Rossano. Ma io ovviamente sono di parte, tra virgolette, nel senso che scontatamente sono a favore del referendum per due motivi, anzi per tre motivi. Il primo, perché comunque il tentativo di mettere il referendum in mezzo alla primavera, secondo me è un tentativo di svuotare anche l'arma del referendum, sperando ancora una volta in modo sleale sul piano dell'esercizio democratico che poi vinca pigrizia e vincano le arance sbucciate, la gente non vada a votare. Quindi questo invece no, il referendum è uno strumento importantissimo per raccogliere il parere dell'opinione pubblica, della gente che non si esprime solo quando si va a votare. Quando giustissimo, si va a votare, giustissimo. Vediamo immensi manifesti, vediamo un tripudio di annunci pubblicitari che somigliano alla vendita di qualche prodotto, ma la democrazia vera è questa che si esercita anche attraverso lo strumento referendario. Nel merito, qui si chiama in causa lo sblocca Italia, no? Come se l'Italia fosse bloccata dalla carenza di grandi opere di grande impatto. Io credo che noi dobbiamo uscire dall'epoca della dittatura del petrolio, quindi le trivellazioni in mare sono francamente strategicamente alternative al tipo di modello che è stato varato anche dalla COP21, cioè dall'incontro mondiale sullo stato del clima che c'è stato recentemente a Parigi. E dobbiamo andare verso la direzione anche di estrarre davvero il nostro petrolio, che è il turismo. Perché se alla Puglia, di fronte alla Puglia, di fronte all'Abruzzo, mettiamo questi pozzi, si trivella, chiaramente voglio dire o l'uno o l'altro, significa che non è possibile incentivare come dovremmo fare non solo le energie alternative ma anche un'economia a bassa impronta ecologica come quella del turismo. Quindi al di là del fatto se questo referendum, che era insieme ad altri, riguarda una questione specifica della vicinanza, dei permessi da dare alla vicinanza alle coste, sì, per motivi estrattivi, al di là di questo certamente la vittoria del sì non sarà un caso che anche i vescovi si sono schierati perché tutti i cittadini vadano a votare e perché votino sì. Io a questo amplissimo schieramento, che spero non venga confuso dai giochini dell'astensione, roba del genere, perlomeno chi è contrario, chi vuole il no, abbia il coraggio di metterci la faccia e venga a spiegare perché. E qui è una stoccata a Renzi. Aggiungo solo una cosa per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il programma Si può fare, stiamo facendo informazioni su questo. Secondo me bisogna andare a votare, assolutamente, è un'occasione, sono d'accordissimo con Rossano Ercolini, per non dire hanno fatto questo, hanno fatto quello, non sono d'accordo, andate a votare, dite la vostra, così per una volta saremo protagonisti. Nel merito del referendum, siccome si vota sulla durata delle concessioni, che il governo ha voluto togliergli una scadenza, io credo che bisogna votare sì, sono d'accordo con te Rossano, perché grazie, le concessioni devono avere un inizio e una fine, poi si ridiscutono se farle, come farle, se cambiare le royalties per esempio, o se cambiare anche le condizioni in cui questo petrolio viene estratto. Quindi votare sì al referendum non vuol dire interrompere, perdere posti di lavoro, interrompere la produzione, vuol dire semplicemente che le concessioni iniziano e finiscono e poi si ridiscutono, quindi è proprio un motivo secondo me molto chiaro su cui schierarsi. Rossano, grazie, un bocca al lupo per tutte le tue battaglie, rifiuti zero sempre nei nostri cuori. Allora, tra l'altro tra poco sentiremo una persona che con le sue aziende, invece di chiacchierare, ripulisce il mare dal petrolio, con una iniziativa straordinaria, imprenditoriale. E rivotiamo sì, sì. Eh sì. Si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è un sindaco? No, perché ce ne servirebbe uno, veramente uno per Roma. Nessun volontario, una donna incinta, un fascista, non so, ex palazzinario, non c'è niente. Cioè, i candidati ci sono, ma sembrano messi lì apposta per perdere. Cioè, tutti i partiti, più che le primarie, hanno fatto le perdiarie. Prendi il centrodestra, scusami. Pur di non vincere, ve lo giuro, si è presentato con più candidati che elettori. Bertolaso, Marchini, La Meloni e Storace. Guarda lì che bel poker d'assi del water. Allora, ascoltatori, abbiamo Giordano che ci chiama da Treviso. Buongiorno Giordano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Che ci dice? Io volevo dare la risposta al vostro quesito. Molto sì. Volentieri. Ecco, allora, siccome è una foto, io quella foto ce l'ho stampata in testa perché sono del 43, avevo circa 8 o 9 anni, è la foto dei mondiali quando abbiamo vinto nell'82, Quindi forse il personaggio è proprio il 19, che è l'aereo che era, doveva essere demolito dall'Alitalia e poi sembra che invece vada in un museo di Vololandia, mi pare. Il famoso aereo dove giocavano a briscola, sì. Pertini. Giocavano a Scopone. Non ho capito, Scopone, non ho capito, sei del 43, avevi 8-9 anni. No. Ho 43 anni. Perfetto. E giocavano a Scopone, Causio in coppia, mi pare, sì, con Bearzot e Pertini... Invece che era con Zoff, tra l'altro Pertini perse, esatto, perché pare che Causio fece una mossa un po' perché tirò giù un 7 e Pertini lo lasciò andare, poi lo prese Bearzot e fece alla fine 7 bello. Quindi... c'è una storia mitica su quella partita. Sì però quella foto un po'... ma l'aereo, Giordano, l'aereo invece? L'aereo è il 19, sì, che viene recuperato adesso e dovrebbe andare in un museo. C'era salita sulla polemica perché insomma questo aereo doveva essere demolito, poi si è alzato un po' il polverone, adesso lo recuperano, esatto, e finisce, esatto, nel museo dell'aeronautica. Ed insomma, è una notizia straordinaria, però non era questo il personaggio che avevamo scelto, un personaggio da record, abbiamo detto, è una notizia che nasce da una foto e infatti questa foto era proprio da segnalare questa settimana. Giusto. Esther da Bergamo, buongiorno. Salve, sono Esther. Sì. Su cosa vuole intervenire, Esther? Volevo rispondere alla domanda del personaggio misterioso. Prego. Yes. Chi è? Ok, secondo me è Simone Moro. L'alpinista Simone Moro, perché? Sì, perché è il primo ad aver scalato d'inverno 4 montagne oltre gli 8000 metri senza bombole. Certo, come no, cavoli. Però posso dire una cosa, non è una notizia di questa settimana, è una notizia... di qualche settimana fa. Cara Esther, motivo per il quale ti devo deludere, perché non è lui il personaggio, vero Carlo? È vero, no, non è lui, ma siamo sempre contenti di ricordarlo, perché è stato ricordato anche settimana scorsa Simone Moro e la sua impresa. Allora diamo ufficialmente un altro indizio, un terzo per il indizio. Personaggio della settimana è iniziata la primavera, c'è poca attenzione, è seguito in tutto il mondo. Anzi, guarda, visto la tua giusta battaglia, sì, contro l'abuso dei termini inglesi, dovresti dire a molti seguaci, sì, perché che tu è la parola giusta per che dire di solito cosa. Invece viene detta in inglese. Però, seguaci, però posso dire che qua seguaci è proprio giusto, perché tutti hanno un po' paura a dire seguaci quando intendono i propri follower, ecco, dicono seguaci, ecco. Però in questo caso direi che è proprio giustissima. Allora, tutto per dire, follower, 800240024, questo personaggio ne ha molti, dai, tutti oggi siamo proprio seguaci. Siamo buoni, siamo molto buoni. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare, sento che sto lasciandomi andare, questo sole. Fare. Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse solo da un momento. Allora, salutiamo Daniela Ducato. Buongiorno, buona domenica e ben ritrovata. Buongiorno a tutti voi e buona domenica. È un grande, grazie, piacere risentirla, Daniela. È un po' anche che non la me sentivamo. Lei è un altro di quei vulcani in piena che fanno sempre un sacco di cose, iniziative. Anni fa è partita con una idea, recuperare dagli scarti della lana di pecora e poi non solo, per fare delle pitture, degli intonaci, dei mattoni, poi altre cose, sempre dagli scarti, se non ricordo male, dagli scarti della lavorazione dell'olio, forse anche del latte, vero? Dagli scarti del food, di quelle sottolavorazioni che poi sono il grande spreco, sì, del cibo, quello diciamo invisibile, perché molto cibo si spreca proprio in quelle parti non edibili, quindi che non possono essere ovviamente, che non possono diventare cibo, non sono quindi commestibili. Non sono commestibili e quindi vengono recuperate per realizzare diversi materiali, dagli isolanti alle pitture, ai leganti, ai mordenti, insomma di tutto di più. Perché mentre quegli altri fare, fanno le leggi, aspettano di fare le leggi su antispreco eccetera eccetera, tu sei partita tempo fa facendo fruttare questi scarti, facendoli diventare, poi a te non piace la parola scarti se non ricordo male, preferisci usare le eccedenze, esatto, perché dà l'idea del dono e dell'abbondanza. Brava. Cominciamo subito dalle parole a essere precisi, e questa volta state per lanciare un nuovo prodotto, io ho detto che aiuta a pulire il mare. Sì, il 22 marzo, che come sapete è la giornata mondiale dell'acqua, in tutto il mondo si celebra questo bene primario, fondamentale, e noi da Cagliari, quindi città del mare, quindi dalla Sardegna, che appunto è nel nostro immaginario il mare, abbiamo realizzato con l'Università degli Studi di Cagliari un'innovazione che è completamente di materiali rinnovabili, quindi ritorniamo sempre sul filo di lana, lana di pecora, e questa volta però l'utilizzo non è quello dell'isolamento degli edifici, ma viene utilizzata per negli sversamenti operativi giornalieri. Che cosa sono? Ogni giorno chiaramente tutta l'attività di navigazione, pensiamo alla pesca, pensiamo al trasporto delle merci, delle persone, al turismo, producono degli sversamenti di idrocarburi petrolchimici in mare. Questi rappresentano il 25% dell'inquinamento, però è una notizia mediaticamente assente, ovvero quando c'è un incidente in mare, quindi pensiamo a un incidente, non so, di una nave petroliera in piattaforma, allora se ne parla, i media, certo, ne parla. I due inquinamenti hanno percentuali diverse. Quello dell'emergenza, della grande notizia, rappresenta l'8% dell'inquinamento in mare da idrocarburi petrolchimici, sì, mentre l'altro, quello il 25, giornaliere, il 25. Io queste frasi me le vorrei tatuare da qualche parte su un braccio, perché pensa, allora io lo ripeto per essere proprio pedissequo: l'8% dell'inquinamento del mare deriva dai grandi incidenti che sversano il petrolio, di cui si parla moltissimo, tre volte tanto, il 25% deriva invece da queste sono piccole operazioni di manutenzione quotidiana, sì, le piccole perdite, il carburante. Diciamo, esatto, sono quegli sversamenti, si chiama appunto sversamento operativo, perché è poi quello che, sì, ovviamente consente le attività in mare di navigazione. E qui arrivate appunto, voi con la vostra idea. Arriviamo noi, sperando anche di sensibilizzare verso questo tipo di inquinamento, e voi lo state facendo, e quindi vi ringraziamo. Qual è l'azione che viene svolta? Vengono svolte due azioni in contemporanea, una quella dell'assorbimento e una quella della biodegradazione. Quindi abbiamo creato un geotessile che ha una microstruttura cellulare che cosa fa? Cattura l'idrocarburo petrolchimico e contemporaneamente offre comfort abitativo, il caso di dire, diventa la casa ideale, l'hotel ideale, il ristorante ideale per i microorganismi utili che mangiano proprio questo cibo, che si nutrono di idrocarburi petrolchimici. Quindi senza aggiungere disperdenti, aggiungere solventi, microorganismi, senza aggiungere quei prodotti che già si usano, anche, certo, aggiungere comunità di microorganismi in mare, invece no, noi offriamo casa e quindi è cibo ai microrganismi utili che quando c'è l'umidità e quindi l'acqua si riattivano il loro metabolismo, e quindi oltre ad assorbire grandi quantità di idrocarburi petrolchimici, in contemporanea questi idrocarburi vengono mangiati proprio, e quindi poi l'acqua viene rilasciata pulita. Per dare dei numeri più o meno, perché possono aiutare, e se ad esempio questi prodotti vengono messi per la gestione sostenibile di un porticciolo turistico, sì, quindi in un mese, immaginiamo dove solitamente ci sono le uscite, che ne so, delle canoe, delle barche, dei pedalò, o dei motoscafi, ecco, come al posto delle boe o accanto alle boe, non al posto, accanto alle boe, immaginiamo che un chilo di questo prodotto riesce a degradare, quindi a mangiarsi in un mese quasi 2 chili di questi sversamenti petrolchimici. Straordinario. L'assorbimento poi è molto importante, perché chiaramente abbiamo anche un uso di emergenza, cioè laddove c'è un'emergenza chiaramente ci si attiva, con un assorbimento che arriva al 14% del peso iniziale, quindi è nel ciclo di vita, perché un'altra cosa importante è che rispetto ad sì. altri assorbenti dobbiamo fare una piccolissima pausa, Daniela, per sì. il traffico. Resta con noi perché in 30 secondi poi ti voglio chiedere dove si trovano questi prodotti, come si fanno a trovare, quando saranno in distribuzione. Facciamo un appello a tutte le multinazionali in ascolto, cioè nessuno, investire su questa roba qua, esatto. facciamola diventare un made in Italy e, pazzesco in giro nel mondo. È una pausa di inquinamento. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Davvero in 30 secondi, Daniela Ducato, perché dobbiamo chiudere. I prodotti Geolana saranno presentati martedì prossimo. Dove? Diamo questo appuntamento. A Cagliari. Il 22 marzo alle 10 a Cagliari, al Molo Ipnusa, quindi in zona di Porto. E vedremo per la prima volta e soprattutto verranno presentati con lo staff e tutto il team che ha sviluppato questo prodotto, sì. quindi ci sarà l'Università degli Studi di Cagliari, ci saranno gli ingegneri, ci saranno i chimici, ci saranno tutte le persone che hanno dato la loro intelligenza, fatto per team che per nascesse questo prodotto. Questo prodotto. Geolana, benissimo, grazie, un grande abbraccio, a presto. Daniela Ducato, siamo in addirittura d'arrivo. Lucia da Modena, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Pronto? Buongiorno. Sì. Sì, buongiorno. Secondo me il personaggio potrebbe essere Papa Bergoglio, che è sbarcato su Instagram. Yeah! Alla grande! È finalmente il Papa, che arrivati. Molto spesso ci viene proposto come personaggio. L'abbiamo scelto come personaggio perché ha deciso di sbarcare, appunto, come hai detto giustissimamente te, su internet, su Instagram, scusate. Ha già 1.200.000 follower, ha postato 2 foto e un video. Grazie, in bocca al lupo. I biglietti e il catalogo della mostra di Miro al MUDEC di Milano per lei. Adesso, senza introduzioni musicali, bando alle ciance. Salutiamo, diamo la buona domenica a Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di Mezzo, organizzatore di Fa la Cosa Giusta, la fiera bellissima che si è svolta ieri, l'altro, ieri e oggi, chiude oggi. Buongiorno, benvenuta, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Buongiorno. Fiera Milano City, c'è tempo ancora oggi, sono le 10 del mattino, mancano pochi minuti per fare un salto e scoprire che cosa nell'edizione di quest'anno, Miriam? Ma direi un mondo che produce e consuma, essendo attenti alle relazioni, al gusto, alla bellezza e alla giustizia. Quindi certo. dal cibo ai vestiti, alle vacanze, ai percorsi a piedi. Ci sono 770 espositori che vi aspettano con i loro prodotti, ma soprattutto con le loro storie. Una fiera che sentiamo quasi come gemella rispetto a, anche a quello che cerchiamo di raccontare noi a Si può fare il sabato e la domenica mattina. Qualche chicca di questa edizione, Miriam? Sì, direi che uno degli elementi clou, e oggi è la giornata davvero in cui diamo appuntamento a più numerose persone, uno degli spazi più visitati e più vivi in questa edizione è quella dedicata ai percorsi a piedi. Voi sapete che quest'anno è l'anno del giubileo, ma è anche l'anno nazionale dei cammini, programmato dal Ministero della Cultura, e davvero stiamo assistendo a un risveglio di questo tema in Italia ma anche in Europa. Tantissima gente fa vacanze sostenibili, vacanze lente, e decide di percorrere questi grandi itinerari culturali, storici e religiosi. Il Cammino di Santiago è il più famoso, ma sta decollando anche tutta la rete dei cammini in Italia, in particolare la Francigena, il Cammino di San Benedetto, il Cammino di Francesco. Anche perché se qualcuno può avere problemi a correre, oggi c'è la Stramilano a Milano, esatto. se qualcuno non si trova bene ad andare in bicicletta, camminare lo possono fare quelli che hanno due gambe, si che funzionano tutti. Esatto, quindi si impara da bambini, infatti ci viene chiesto spesso chi può fare questi percorsi che sono magari di 400 ma anche di 800 chilometri. E la risposta è che lo possono fare tutti. Io ho visto sul Cammino di Santiago bambini di 3 anni e anziani di 80. È verissimo. Direi che la risposta è che il Cammino di Santiago l'ho fatto pure io. Se ce l'ho fatta io, ce la può fare veramente chiunque. E questo è uno scoop. È vero, è vero. Uno scoop che non sapevo, sì, assoluto. Sì. Noi salutiamo Miriam Giovanzana, grazie per essere stata con noi. Buona domenica. Fa la cosa giusta, Fiera Milano City. Mi raccomando, andateli a trovare. È tutto per oggi. È tutto. Saluto e ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schettone, redazione Lorenzo Nespoli, oggi in regia Carmelo Lauricella. Ciao, io devo solamente dire che sarò a Mantova alle 17 alla IBS di Via Verdi, alle 17 presento il libro Fossi in te, io insisterei. Ciao a tutti, da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Buona domenica.